in primo piano. Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani. Oggi è uno di quei giorni in cui i titoli sono molto diversi, sapete, ci sono giorni in cui sembrano a volte quasi fotocopia, invece oggi ogni quotidiano ha la sua scelta. Cominciamo come sempre dal Sole 24 Ore, che si concentra sulla manovra, perché stanno emergendo giorno dopo giorno sempre più dettagli. Naturalmente dobbiamo anche aspettare un eventuale ok che poi magari verrà contrastato dal governo italiano, un eventuale ok via libera dell'Unione Europea. Però la manovra, che sapete ha suscitato molte polemiche, il fatto che arrivasse all'esame del Parlamento in ritardo, fossero prima uscite delle indiscrezioni, comunque si continuano a scoprire nuovi particolari. Oggi il Sole 24 Ore si concentra su quello che cambia per imprese, lavoratori e pensionati. Quindi sappiamo che un ok di massima del Quirinale c'è stato, e poi però naturalmente ci sono molti altri passi da compiere, e naturalmente l'esame del Parlamento, e sappiamo quanti poi possono essere gli emendamenti presentati sui quali si deve votare. Alle pagine, quindi dalla copertina fino alla pagina 5, trovate tutti gli approfondimenti con degli schemi molto chiari per capire appunto che cosa, per quanto sappiamo fino adesso, cambierà con questa manovra fiscale, cioè il budget dello Stato per il prossimo anno. Il Corriere della Sera invece titola sulle ultime dichiarazioni del Premier Renzi sui rapporti tra Italia e Unione Europea per quanto riguarda i migranti, e quindi il titolo: la mossa dell'Italia sui migranti, sanzioni agli stati che non accolgono. Questo è un po', l'avete sentito nei giorni scorsi, la posizione di Renzi di attuare una sorta di rappresaglia nei confronti dell'Unione Europea, per esempio anche paventando anche un no dell'Italia al budget, diciamo la finanziaria dell'Unione Europea. Ieri è intervenuto anche il ministro dell'Interno Angelino Alfano, che ha detto questa emergenza che continua e l'atteggiamento dell'Europa che continua a essere di un po' lavarsi le mani e lasciare che siano soprattutto Italia e Spagna a occuparsi di questa emergenza, dice, prefigura un passo formale del governo verso la Commissione. La fotonotizia però del Corriere della Sera è dedicata alla vicenda di cui avete sicuramente sentito parlare, l'ultima sorpresa in questi ultimissimi giorni di campagna elettorale prima dell'Election Day negli Stati Uniti. È emerso, forse ricorderete, c'era già stato uno scandalo email con Hillary Clinton accusata, quando era segretario di Stato, cioè equivalente del nostro ministro degli esteri, di aver usato con leggerezza il server, il suo account personale governativo, e che quindi esponendo segreti di Stato agli hacker. Ora viene fuori un secondo scandalo, scaturito da quindi un'altra serie di email che Hillary Clinton avrebbe con leggerezza mandato dal suo account appunto governativo, e tutto questo è venuto fuori, così si è saputo, da un'inchiesta che c'è su Anthony Weiner, che è l'ex marito di una fedelissima collaboratrice di Hillary Clinton, Huma Abedin. Lui è accusato di aver fatto quello che si chiama sexting, cioè mandare SMS, WhatsApp o qualche altra diavoleria via mobile a una minorenne. L'altro titolo forte però del Corriere della Sera è dedicato a un'intervista concessa da Giuseppe Pignatone, procuratore di Roma, che torna sul tema della corruzione, che lui definisce sistemica, quindi non è solo la maxi indagine mafia capitale appunto che riguarda Roma, e danneggia anche i cittadini. Sì, direi la corruzione danneggia tutti quelli che non sono corrotti o corruttori. La Repubblica invece titola su un sondaggio che poi viene commentato da Ilvo Diamanti. Secondo questo sondaggio, per il referendum, l'altro appuntamento elettorale che riguarda però noi, voteremo il 4 di dicembre, referendum avanza al no, e la prima reazione di Renzi è stata che comunque cercherà di recuperare dei voti per invece il sì, la sua posizione a sinistra. E ricordiamo che oggi con la Repubblica, come da circa, insomma, da agosto, quindi da ormai 2 mesi, da quando Tommaso Cerno è diventato direttore dell'Espresso, con la Repubblica è in edicola l'Espresso. La copertina è dedicata al sindaco Virginia Raggi, suggestivo il disegno perché c'è una piccola Raggi e la sua ombra, in realtà è un'ombra maschile che alza una mano su di lei, come dire che la comanda, e il titolo quindi Il sindaco ombra. Dietro Virginia Raggi c'è un uomo forte che sarebbe Raffaele Marra, che già con Alemanno ha firmato contratti milionari a favore di imprenditori poi coinvolti in mafia capitale. E ora appunto Raffaele Marra è al Campidoglio a fianco di Virginia Raggi e spacca il Movimento 5 Stelle. Però c'è anche un accenno in copertina al fatto che Carminati ha attaccato l'Espresso dopo le rivelazioni della scorsa settimana. Quindi, dopo le nostre rivelazioni sul ricatto alla Repubblica, il capo criminale rompe per la prima volta il silenzio e prende la parola in aula per lanciare messaggi ai magistrati e alla politica, mettendo nel mirino le inchieste del nostro giornale. Obiettivo: usare quello che sa per salvarsi anche da questo processo e tornare re di Roma. La Stampa ha un titolo ancora diverso, un'inchiesta fatta dalla Stampa dopo l'impressionante crollo del viadotto vicino a Lecco di 2 giorni fa. Il titolo della Stampa: la mappa delle strade a rischio, 1 su 4 non è in regola. E poi naturalmente un accenno a quello che sta succedendo per capire di chi sia la responsabilità del crollo del viadotto, scarica barile tra ANAS e provincia, provincia di Lecco, dopo il crollo del cavalcavia. E trovate tutta questa inchiesta con una mappa anche dell'Italia che fa capire quali sono i piani di riqualificazione o di manutenzione straordinaria in questo momento dell'ANAS. Trovate tutto alle pagine 2 e 3 della Stampa. Il Messaggero ha un titolo ancora diverso, perché a proposito di interviste, qui l'intervista è a Raffaele Cantone, al vertice dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. Torniamo quindi sul tema della corruzione. Il titolo dell'intervista: fondi alla politica, regole subito. Secondo Cantone questo è un tema molto importante, e per quanto riguarda invece il taglio agli stipendi dei parlamentari, lui risponde: forse sarebbe meglio concentrarsi sui controlli sulle fondazioni. Sapete che moltissimi politici, da Lema con la sua Fondazione Italiani Europei a Fini, ma ce ne sono tantissimi altri, hanno appunto dato vita negli anni a queste fondazioni che poi ricevono dei contributi. E per quanto riguarda il Campidoglio, Cantone anticipa che, da quello che risulta da tutti i dossier che stanno analizzando, ci sono stati anche appalti del Giubileo con alcuni errori sospetti, definiti, dei dirigenti, e Cantone dice: l'ho già denunciato al sindaco. Il Giornale titola in un certo senso come la Repubblica sul referendum, ma ponendo l'accento sulla manifestazione che c'è stata ieri a Roma, e il titolo è: solo mezzo PD va in piazza a favore del sì. E qui c'è la solita guerra di cifre quando ci sono le manifestazioni. Il PD ha detto ufficialmente, lo vedremo anche sull'Unità, eravamo in 50.000, la Questura dice erano 7.000. Quindi vediamo subito il titolo dell'Unità, grande foto di questa manifestazione ieri a Roma, e il titolo è: viva l'Italia che dice sì. E il racconto è del direttore dell'Unità da poche settimane, Sergio Staino: cosa vi siete persi? Libero invece titola su un'evoluzione che ci potrebbe essere nel centrodestra. Secondo Libero, Berlusconi e Salvini sono ai ferri corti. La disponibilità del Cavaliere a sostenere ancora una volta un governo di larghe intese fa infuriare il leader del Carroccio, che se la prende con la linea politica di Mediaset, definita peggio di quella della Rai, e anche sulle questioni europee, su cui Berlusconi ha posizioni un po' più morbide di quelle di Salvini. C'è una rottura, questa è l'interpretazione di Libero. Il titolo, per quanto riguarda la manifestazione di ieri, dell'articolo di Franco Becchis, è: Renzi in piazza con 4 gatti e un cuperlo, perché un po' la sorpresa di ieri è stata che Cuperlo, che è uno degli esponenti della minoranza PD, che ha già annunciato che voterà no e che sta però cercando di ricucire in qualche modo le due anime del partito, la minoranza e la maggioranza che sta con Renzi, è andato ieri in piazza tirandosi anche molte critiche. Ultima segnalazione prima della pausa per il meteo e una piccola pausa: l'intervista a Enrico Mentana, che con un certo understatement dice: l'arbitro del referendum sono io. E l'intervista, il riferimento naturalmente è ai duelli che ai duelli proprio ai faccia a faccia tra chi di volta in volta sostiene il no e sostiene il sì, che il direttore del TG La 7 sta tenendo appunto sulla 7 una volta alla settimana. Ma ci fermiamo un attimo per una pausa. In primo piano. Ancora buongiorno e buona domenica da Giulia Crivelli. Eravamo sulle pagine, sulle prime pagine dei giornali italiani di oggi, che abbiamo visto hanno titoli davvero uno diverso dall'altro. E quindi La Verità, il quotidiano fondato circa un mese fa da Maurizio Belpietro, si anticipa un'indiscrezione, una storia, dietro c'è anche un'inchiesta quello che potrebbe succedere nella Chiesa. Il titolo: il Papa consegna la Chiesa a Galantino, che è il segretario della CEI. C'è un piano, immigrati nei seminari. Il segretario della CEI è fautore dell'accoglienza indiscriminata e si prepara a venire incontro alle difficoltà del governo mettendo a disposizione edifici vuoti. A casa sua molti cattolici non versano più l'8 per mille, quindi molto polemico il titolo. Sull'Avvenire, che è il quotidiano della CEI, non c'è traccia di questo. Il titolo è invece sulla manovra, però non come fanno altri giornali, concentrandosi per esempio sulle misure per i lavoratori, ma in questo caso sulle altre sorprese che stanno venendo fuori, da qui appunto il titolo Manovra a sorpresa. Il testo della legge infatti è arrivato alla Camera, sapete che la Presidente della Camera Laura Boldrini aveva protestato per il ritardo con cui la manovra arrivava, adesso è arrivata e si è per esempio scoperto questa possibile tassazione definita di favore ai super ricchi stranieri, perché sarebbe una tassa fissa di 100.000 euro a chi appunto con patrimoni anche ingentissimi e entrate annuali molto ingenti decidesse di trasferirsi in Italia e di investire in Italia. Altri dettagli che stanno emergendo e che l'Avvenire sottolinea è che ci sarebbero meno fondi per le scuole materne. Vedremo infatti, vedremo come dicevamo, perché non è ancora chiaro quali sono esattamente le misure all'interno della manovra. Il Fatto Quotidiano titola sulla manifestazione di ieri, ma con un taglio diverso da quello dell'Unità e da quello del Giornale. PD: la donata costa 1 milione e ogni manifestante 50 euro. E poi un po' di cronaca su quello che è stato detto e abbiamo visto su questa polemica per il fatto che ci fosse alla manifestazione Gianni Cuperlo, esponente della minoranza PD, che voterà no, almeno questo è quanto al 30 di ottobre, poi vedremo se cambieranno idea prima del 4 di dicembre. E poi vi segnalo un divertente articolo che poi trovate a pagina 19 di Selvaggia Lucarelli, che si occupa dell'olio di palma. Avrete sicuramente un po' notato anche voi questa polemica sull'olio di palma, tra l'altro Rita Fatiguso, la nostra corrispondente dalla Cina, ha scritto un libro su questo di cui si è anche parlato, mi ricordo una volta durante la trasmissione di Oscar Giannino. Si dice che sia nocivo, si dice che alcuni, poi ci sono sempre posizioni contrastanti su questo, e adesso moltissime aziende sottolineano che lo hanno tolto, quindi senza olio di palma. E da qui un po' prende spunto Selvaggia Lucarelli dall'ACE, l'ACE il famoso succo, all'aloe, la parabola delle ossessioni salutiste. Quanto durerà l'olio di palma? Anche perché sapete che per esempio la Ferrero, che è una delle più grandi aziende italiane e tra le più grandi aziende al mondo nel settore dolciario, ha detto che per esempio all'olio di palma non rinuncerà. Il Manifesto titola sulla Piazza Romana, ieri quella della manifestazione di per il sì, però intitola La pizza romana. Nel comizio romano di Piazza del Popolo il premier segretario ripete il solito numero dell'uomo nuovo contro tutti, attacca cantando O sole mio e chiude invitando i militanti alla mobilitazione straordinaria per il sì tra porta a porta e pizzerie. E Cuperlo, abbiamo visto appunto a sorpresa presente ieri, viene definito Cuperlo nella tana del lupo. Poi vi segnalo la prima pagina della Gazzetta dello Sport, la Gazzetta Sportiva, e sapete che ieri nell'anticipo la Juventus ha vinto 2-1 contro il Napoli e il gol è stato proprio di Higuain, ex del Napoli, definito dai molti tifosi napoletani un traditore, e il segnale un po' che ha dato Higuain di questa, sicuramente di questa stranezza, di questo scherzetto del destino sportivo, è che non ha esultato come quasi sempre si fa dopo il gol. Passiamo alle pagine interne e vi segnalo un tema che poi riguarda tantissime persone, cioè tutte quelle che si spostano in treno. Sulla prima pagina di Imprese e Territori, il Marco Morino fa il punto sulla espansione dei treni ad alta velocità a est. Parlando con Gentile di Rete Ferroviaria Italiana, veniamo a sapere che nel 2017 partiranno i cantieri della Brescia-Verona e c'è anche un accordo con Vicenza. A dicembre invece ci sarà già il Frecciarossa che collega Brescia, e però appunto per le Ferrovie dello Stato è solo il punto di partenza, perché l'alta velocità riguarderà, oltre che sappiamo la tratta in questo momento più veloce, la Milano-Roma e poi Milano-Napoli, anche tutte le tratte verso l'est. Come ogni domenica da tre settimane, una pagina dedicata a sport e business. Questa settimana sci alpino, volley, golf e universiadi. L'Italia non rinuncia ai grandi eventi. Sappiamo che è formalizzata la rinuncia ad ospitare le Olimpiadi del 2024 a Roma, ma tra il 2017 e il 2022, ci raccontano Fabio Grattagliano e Veronica Riefolo, l'Italia ospiterà molte manifestazioni internazionali. Un altro articolo interessante, un'inchiesta di Roberto Galullo, una giornalista, una voce ben nota agli ascoltatori di Radio 24, che si occupa di quelle che si possono definire le archeomafie. Affari d'oro per le archeomafie. Anche le cosche italiane aiutano l'ISIS a finanziarsi con il traffico dei reperti. E Roberto Galullo ricostruisce appunto come funziona questo traffico, perché l'ISIS naturalmente opera in paesi dove ricchissimi di reperti archeologici e molti appunto che sarebbero protetti da tutte le convenzioni possibili e immaginabili, e li trafuga però e poi li vende clandestinamente per raccogliere fondi. Sul Corriere della Sera, nella stessa pagina, due situazioni politiche molto diverse dell'Europa allargata, potremmo dire così. La prima notizia è, la trovate anche su altri giornali, che dopo 10 mesi la Spagna ha finalmente un governo. C'è stato questo voto, sapete, da cui si sono astenuti i socialisti per poter per far sì che il voto di fiducia al popolare Rajoy passasse, con anche polemiche interne. L'ex leader del partito Sanchez si è proprio dimesso piuttosto che astenersi da questo voto. Subito sotto invece l'altro grande, diciamo, sorpresa, sappiamo che ce ne sono parecchie di sorprese politiche in Europa e non solo in questi ultimi mesi, e l'articolo è dedicato all'Islanda e in particolare alla leader Brigitta Jonsdottir, 49 anni, leader del partito che si chiama Partito Pirata. Da mamma disoccupata a leader dei pirati d'Islanda, la metamorfosi di Birgitta, che è la donna che guida la rivolta antipolitica, perché anche questo movimento appunto si può inserire un po' generalizzando in questa categoria che è dei partiti che non vogliono nemmeno essere definiti partiti, perché preferiscono essere definiti movimenti. Dal Corriere, come ogni domenica sapete, ha una sezione dedicata alla salute. Questa settimana la parte maggiore di questa sezione si occupa del tumore. Tra l'altro avete sentito forse i dati, è aumentato il numero di persone che sopravvivono al tumore se curato per tempo e bene, e qui un altro approfondimento da un altro punto di vista: i miti sui tumori e perché nascono. Circolano decine di leggende a proposito del cancro, sia sulle cause sia sulle cure, tra queste quella che ventila l'esistenza di una terapia efficace tenuta nascosta dalle aziende del farmaco, tutte tesi senza fondamento che prosperano grazie alle nostre fragilità psicologiche che naturalmente vengono fuori spessissimo quando siamo colpiti da una malattia che in molti casi resta incurabile. Le pagine interne di Repubblica, vi segnalo sul fatto incredibile del crollo vicino a Lecco, un'intervista al ministro dei trasporti Graziano Del Rio. Un ponte non cade in appena 3 ore. L'ANAS deve garantire più manutenzione. Quindi in questa polemica, purtroppo tipicamente italiana, di scarica barile di responsabilità, Graziano Del Rio dice che comunque, al di là magari degli intoppi burocratici anche per la metamorfosi che stanno seguendo le province, sapete che in teoria dovrebbero essere abolite, in realtà non lo sono ancora, però comunque la responsabilità maggiore è in capo all'ANAS. Un altro articolo divertente dalla Repubblica: oggi si corre la maratona di New York, che è forse quella più famosa al mondo. Tra l'altro gli italiani sono il secondo gruppo, dal punto di vista della nazionalità, a partecipare a questa bellissima maratona di New York. Il titolo della Repubblica è "Correre fa bene". Negli ultimi tempi ci sono state moltissime, perché è oggettivamente aumentato il numero di persone che corre, magari poi non vanno a fare la maratona, però corrono più volte alla settimana, e in questo caso, siccome c'è un gruppo che è guidato da un professionista della corsa, Gabriele Rosa, che racconta proprio dal suo punto di vista come la corsa, e poi magari anche prepararsi per una competizione importante come la maratona di New York, appunto aiuti a star bene, non solo dal punto di vista fisico ma anche dal punto di vista psicologico. La intervista sul Messaggero a Raffaele Cantone, che vi dicevo, la trovate a pagina 5, molto ampia, e come ho detto prima annunciandola, tocca molti temi. E poi vi segnalo dal Messaggero, ma lo trovate su tutti i giornali, un po' di cronaca sull'inaugurazione di ieri della Nuvola, questo centro congressi disegnato da Massimiliano Fuksas, che fino all'ultimo aveva minacciato di non andare all'inaugurazione perché non ha apprezzato le polemiche sulla sua gigantesca parcella e sulla lunghezza dei lavori, 18 anni, è intervenuta anche Virginia Raggi ed è stata anche fischiata proprio quando parlava di trasparenza e di necessità di usare con maggior attenzione e rispetto i soldi pubblici. Ci fermiamo però un attimo per l'ultimo aggiornamento sul traffico. In primo piano. E di nuovo bentrovati per l'ultima parte della nostra rassegna. Dalla Stampa vi segnalo un'altra bella inchiesta, perché settimana prossima, venerdì 4 novembre, cade un anniversario per un altro disastro naturale, che è l'alluvione di Firenze del 4 novembre del 1966, ed è l'occasione per La Stampa per raccontare anche queste di disgrazie. Oltre ai terremoti ci sono anche le alluvioni che hanno colpito il nostro paese nel dopoguerra, e non solo naturalmente. Da Firenze a Genova, 50 anni di alluvioni senza nessun colpevole, perché analizzando appunto le inchieste aperte subito dopo, a volte non sono nemmeno state aperte, si scopre che poi alla fine, a proposito di scarica barile di responsabilità, nessuno di fatto ha mai pagato per queste tragedie. Dal Fatto Quotidiano vi segnalo una inchiesta di Ferruccio Sansa su una finanziaria, questa volta non quella italiana ma quella regionale. Allarme in Sardegna, grande svendita ai privati. Nella finanziaria regionale c'è una norma per svincolare 4.000 chilometri quadrati di suolo, e quindi svincolarli appunto dall'utilizzo per costruire nuove residenze o comunque edifici commerciali, e lasciarli quindi appunto al privato. Sulla questione dell'olio di palma vi ho segnalato l'articolo di Selvaggia Lucarelli, che poi trovate a pagina 19 del Fatto, ma se ne occupa anche Francesco Borgonovo sulla Verità. Il titolo scelto per la pagina che lui dedica sempre alla questione dell'olio di palma è "Salvateci dallo psicodramma sull'olio di palma". Il grasso da vegetale da qualche tempo è diventato il nemico pubblico numero uno. Non ci sono studi a dimostrare che sia peggiore di altre sostanze, ma i colossi alimentari si sfidano a colpi di spot e i media montano campagne. E se tornassimo a usare il burro? Bene, passiamo magari un'ultimissima segnalazione, scusate perché è bellissima, su Libero. Una pagina, Daniela Mastromattei ci racconta di un passo avanti nella medicina veterinaria: occhiali per cani e gatti, arrivano le lenti per i nostri amici con problemi di vista, vietato il fai da te e pensare che sia solo un accessorio, quindi come in realtà per tutti i problemi, anche quelli naturalmente degli esseri umani. No fai da te, no troppa fiducia in quello che si legge su internet, si va dai professionisti e si vede se è il caso appunto di investire in questi occhiali per il proprio cane o gatto. E poi una notizia meno bella, che è l'allarme Spesso quello che succede a Halloween, vengono spesso uccisi gatti neri. Nel Lazio si temono riti con sacrifici di animali, scherzetto o micetto, sapete che in realtà lo slogan sarebbe scherzetto o dolcetto, trick or treat in inglese, attenzione ad Halloween. Ma passiamo, come dicevamo, ai supplementi della domenica. Iniziamo come sempre da quello del Sole 24 Ore e come sempre dal breviario di Gianfranco Ravasi, che oggi si intitola Vivi. E la citazione è di Marcello Marchesi, un umorista. L'importante è che la morte ci trovi vivi. È tutt'altro che un nonsense questa battuta di quell'acuto autore umoristico che fu Marcello Marchesi. Proviamo a riformulare la verità sottesa a questo motto attraverso la voce di un importante pensatore inglese dell'Ottocento, John Henry Newman. Tra l'altro mio collega nel cardinalato dopo la sua conversione al cattolicesimo. Non aver paura che la vita possa finire, abbi invece paura che possa non cominciare mai davvero. Molti infatti trascinano un'esistenza spettrale da walking shadow, come diceva Shakespeare. Sì, sono ombre che passeggiano, vuote di passione, di impegno, di umanità. L'approdo alla morte avviene con le mani vuote, perché si è lasciato fluire il tempo come se fosse sabbia e non semente, adottando come legge il minimo, evitando ogni rischio, narcotizzando cuore e cervello. Invece, come fa l'Adriano della Jursenar, cerchiamo di entrare nella morte a occhi aperti e soprattutto da persone che hanno vissuto davvero. Poi naturalmente il memorandum del nostro direttore, nostro di Radio 24, del Sole 24 Ore, dedicato alle riforme del lavoro, in particolare il titolo è La passione dei nostri giovani, la maturità spagnola. Sapete che in Spagna la disoccupazione giovanile è diminuita e sono riusciti a farla diminuire rispetto all'Italia, ma c'è anche un excursus storico sugli effetti positivi che ha avuto la riforma del lavoro in Germania, che è costata all'allora cancelliere Gerhard Schröder la rielezione, però nel medio termine la Germania ne sta ancora, per stessa ammissione di Angela Merkel, ne sta ancora vedendo i benefici. Il titolo principale però della copertina, dedicato a un nuovo libro di Giulio Busi su Lorenzo De Medici, e vista l'enorme successo della serie televisiva sui Medici, appare particolarmente attuale. Il titolo Epifania del Magnifico. Lorenzo De Medici nacque il 1 gennaio 1449, ma per battezzarlo si attese il 6 gennaio, giorno della festa dei Magi, un presagio della sua futura grandezza. E poi le quattro pagine dedicate da tre settimane a questa parte ai lettori più piccoli, il prezzo di copertina è dedicato a Harry Potter e poi tantissimi altri spunti per i giovani lettori. Fulvio Race ci racconta la nuvola di Fuxas da un punto di vista strettamente architettonico, aperto dopo 18 anni di lavori l'avveniristico nuovo centro congressi progettato da Massimiliano Fuxas. La lettura del Corriere della Sera affida la copertina a un artista, come sempre, questa settimana è Andreas Burger. Dall'interno vi segnalo un articolo interessantissimo che prende spunto da alcuni libri che sono usciti, intitolato La vera monaca di Monza, una mostra nella città lombarda sulla religiosa immortalata da Alessandro Manzoni, naturalmente nei Promessi Sposi, rinchiusa in convento, stuprata, condannata e murata a vita, poi elevata a icona del pentimento, i dolori di Suor Virginia. Un intervento pubblicato integralmente dalla lettura di Wilbur Smith, che è uno dei più, credo, più prolifici scrittori in lingua inglese, anche se lui è di origine sudafricana, e la lettura sceglie di intitolare Ispirazione più fatica, il coraggio dello scrittore, e si racconta ancora una volta, ma lo sappiamo, io ricordo per esempio anche il racconto di Stephen King, che i grandi scrittori, o soprattutto quelli che sono molto prolifici, hanno una disciplina ferrea, non timbrano il cartellino, ma si danno da soli degli orari giornalieri molto appunto ferrei su quanto devono dedicare alla scrittura. Bellissima recensione di Alessandra Iadicicco al nuovo libro di Ella Frances Sanders, che si intitola Tagliare le nuvole col naso. È, diciamo, la prosecuzione di un altro libro che aveva pubblicato Lost in Translation un anno fa. È ancora di Marcos y Marcos e raccoglie i modi di dire, le parole che si usano nelle altre lingue per indicare delle stati d'animo, delle situazioni, quindi parole intraducibili, perché per tradurre al posto di una parola ce ne vogliono molte. Il titolo della lunga recensione è Che tenerezza al gatto in testa, perché uno dei tanti modi di dire è una parola finlandese, che significa gironzolare come un gatto intorno al porridge fumante. In Finlandia descrive una situazione in cui una persona è particolarmente curiosa di sapere qualcosa, vorrebbe tanto compiere un'azione, ma è costretta a trattenersi e resta in attesa. Tra l'altro vi segnalo che questo libro è, come l'altro, corredato da illustrazioni bellissime, quindi ci sono i modi di dire, ma anche le illustrazioni. La Domenica della Repubblica dedica la copertina a Lutero, ne avete sentito parlare anche in Oltretevere. 500 anni fa un monaco tedesco annunciò la sua riforma, definita ancora oggi rivoluzionaria. Per le riviste Straparlando di Antonio Gnoli, illustrate sempre da un bellissimo disegno di Riccardo Mannelli, questa settimana Fulco Pratesi, che è stato il fondatore del WWF e di cui oggi è presidente onorario, il titolo molto divertente, che spero vi incuriosisca a leggere questa intervista: volevo essere un grande cacciatore, un'orsa mi fece cambiare idea. Invece il macro del Messaggero, il supplemento culturale del Messaggero, che in realtà c'è tutti i giorni, non solo la domenica, è dedicato a un restauro, e quindi il titolo: il crocefisso risorto da ombra a polvere, restaurata un'importante statua lignea del Cristo in croce risalente al XIII secolo, attribuita a Pietro Cavallini. Era nella sacrestia di San Pietro, nascosta, pensate, da 8 strati di sporcizia e vernici. E poi, visto che abbiamo parlato di ossessioni culinarie, pagina 23, un tema un po' più leggero: i cibi intelligenti e l'Isère di lunga vita, dimagrire, restare in forma e soprattutto in salute. È il fine della nutrigenomica, scienza che aiuta a scegliere cosa mangiare. Era però l'ultima segnalazione per oggi. Ringrazio Carmelo Lauricella in regia e auguro ancora a tutti voi una buona domenica.